tanto presto, le denunce degli investitori sono già partite, come indicavi, almeno tre denunce a New York e in California, proprio accusando la società e le sue banche di avere dato informazioni in modo selettivo solo ad alcuni grandi clienti, mentre invece avrebbero appunto nascosto informazioni materiali per l'andamento della società alla maggior parte degli investitori. Questo avrebbe causato perdite a molti investitori, mentre alcuni grandi clienti riuscivano invece a salvarsi o riducendo gli acquisti del titolo o vendendo rapidamente il titolo, come è successo nelle prime sedute dopo lo sbarco. Per dare un'idea dell'andamento di questa IPO, ecco, ieri il titolo è leggermente risalito, ma da venerdì ha perso quasi il 19%. Ecco Marco, c'è un problema di fondo, ma perché gli investitori l'hanno comprato secondo te? In parte probabilmente c'è un elemento di follia o di irrazionalità collettiva che ha tirato la volata a Facebook. L'attesa per questa IPO, ricordiamolo, durava da mesi se non da anni, era doveva essere l'IPO del secolo, il re dei social network, una società con 900 milioni di utenti al mondo, con ritmi di crescita molto molto rapidi negli ultimi anni. Quindi ecco, si era creata un'attesa davvero spasmodica sia tra gli investitori istituzionali che tra i piccoli risparmiatori e gli investitori retail. Ma quello che va detto davvero è che la palla adesso passa alle authority di regolamentazione. L'incidente dell'IPO di Facebook infatti capita dopo un altro recente incidente di mercato, quello di JP Morgan, la grande banca americana, che ha perso su scommesse sui derivati forse almeno 7 miliardi di dollari, scommesse sui derivati che si pensava non dovessero più accadere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Bob Dylan. Beh, intanto è il suo compleanno, è nato il 24 maggio del 41, quindi oggi compie 71 anni. Grande icona, 600 canzoni che hanno fatto storia, che hanno fatto sognare generazioni a partire dagli anni 60. È nato a Duluth in Minnesota, pensate, un paesino, ma soprattutto ieri Bob Dylan è stato insignito della Medal of Honor, che è la più alta decorazione civile americana, dal presidente Barack Obama. La cerimonia di consegna sarà la settimana prossima, e dunque di Bob Dylan, I Want You. Turn to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.